avanti. Sì, avanti. Buonasera, Giulio, cosa parte? Giulio. Oh, ciao, avanti, già. Dammi un controllo il segnale qua. Prova, se guardo lo switcher, prova. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, com'è? Sono 6 quasi. Di segnale, tu stai usando sempre la stessa antenna? Sì, sempre, io sono usando sempre quella, sì. E tu dove sei? Daniele. Sempre al solito posto, che ho spostato l'antenna. Ah, l'hai spostata? E perché l'hai spostata? Un uomo sempre giù. L'ho fatta provvisoria, giusto, sto facendo le prove. Giusto per vedere un po' cosa succede. Poi, quando sarà, la metto bene. L'ideale sarebbe quello, perché va sul tetto. Adesso io, appena che comincia il tempo buono, vai, che sei già per iniziare, trasposto, da dove è adesso, va messo nel punto suo originale, che sarà molto, ma molto più alto. Già va bene, già va bene. Ho dovuto inventarmi un po' di cose per spostarla. Va bene. Aspetta un secondo che provo con l'altra radio, vabbè, per questo sto andando con 4 watt, aspetta. Vabbè, prova, va. Giulio. Avanti, Daniele. Guarda con questo, com'è? La radio è già più forte, il segnale è più o meno uguale. Già va bene. Posso capire perché con questo ho le stazionarie a 1 e 4, con quello là c'avevo 1 e 2. Va bene. Vabbè, quello non è detto, questo non vuol dire niente. Questo non è molto, molto, va bene. Stavo dicendo, questa è la radio comunque più forte, è leggermente più forte anche il segnale. Mezzo punto, va. Questi sono il doppio. Più del doppio sono dei watt, capito? Ed è già meno di quello di prima. Tutto quello che vuoi, ma per notarti di differenza e ce ne vogliono di bei watt. Sembra così, non è semplice, va. È tutto un programma, c'è tutta una questione di matematica. Dipende da tanti motivi. Per cui comunque leggermente più forte già è. Ma di poco, però. La radio è quella che interessa. Questa è la radio più. Va bene, stesso microfono, apparati gemelli con diverse caratteristiche. Va bene Giulio, dai, io ti saluto adesso che sto facendo la prova e devo stare nuovo su a sistemare le due cosette. D'accordo Daniele, dai, ci sentiamo allora, dai, a più tardi se coincide. Ciao, buon lavoro. Gava, saluta gli altri quando li senti. Ok, mi sono sentito con Claudio, ma al telefono poco altro. Adesso è impegnato, lo sta facendo delle cose e non può essere in radio. Più tardi, ma adesso più tardi. Ma voi ci sentiamo, dai, intanto sto guardando la televisione, il canale sportivo, ci sentiamo. Ciao Daniele, ciao, vado poi eventualmente, se coincide. Ehi, a Giulio. Va bene, adesso lo riesco a fare, dai. Buon proseguimento e buon tutto, dai, alle prossime, ciao. Allora, c'è nessuno su 10? Vabbè, CR7. Attento, CR7. Attento, Giulio. Attento, CR7. CR7. Ronaldo, attento Ronaldo, attenzione canale 10. Cucù Paloma, cucù, c'è nessuno? Chi è? Bacio, chi è? Bacio, mi accoppi? Come? Non ho capito chi sei. Peppe, chi è? Il giorno vengo all'alghero, te ne stacco quell'antenna, ce la butto al cesso, che... Cosa? Questo devi dire tu, io non lo so perché prima arrivavi meglio. Io ti sento molto, ma molto male, sai cosa vuol dire male? E sentire male io dal alghero vuol dire che c'è qualche problema. Per forza mi dovrò avvicinare. avvicinare. Qualcosa bisogna fare lì per sentirti bene. Perché adesso da tanto che non ci vengo, voglio capire cos'è che hai combinato. Ma che microfono stai usando? Quello da tavolo? Così hai detto, quello da tavolo? Ho capito, vabbè. Vuol dire che controlleremo anche quello, perché la modulazione è pessima, pessima veramente. E il segnale è molto più basso di come mi arrivavi prima. Quelle? Ma non è questione di pila, no? Se stai uscendo non è questione di pila, è questione di timbrica. Lo modifichiamo quel microfono, è troppo impastata la modulazione, troppo impastata. Ma quello è un più 4 o un più 5? Ah, ecco perché, perché non c'hai i toni. A te ci vorrebbe un più 5 che c'hai i toni, capito? Uguale a quello però più 5, c'ha la regolazione dei toni. Secondo me con quello dovresti andare bene. E se non ne ho io cosa ti porto? Io ne ho uno del mio e lo uso col baracchino. Non ne ho, non ne ho. Adesso chiedo a Massimiliano a vedere se ce l'ha un MB più 5. Capito? Lo sostituiamo con l'MB più 4. Perché quello lì non va bene per te, è troppo impastata la modulazione. Ci vuole un microfono che ti regola i toni, capito? Che ti dia gli acuti. O vuole regolato, capito? Ho capito Giuseppe che hai problemi, conosco perfettamente tutta la tua situazione, però se riusciamo a regolare un pochino più la tonalità della voce, sono sicuro che esci meglio, perché è troppo brutta, non si capisce niente. Adesso vedo un po' se ti procuro un più 5, intanto costa una fesseria, se ti procuro un più 5, proviamo il più 5 a vedere come esci, regolando i toni, facendo le prove dal Ghero a Sassari con qualcuno e vediamo un po' se ti sentono meglio, perché così è impossibile ascoltarti, impossibile, guarda, io se c'ho QRM non ti sento più, perché come segnale rispetto a prima sei calato, però se la voce riusciamo a schiarirla, a farla un po' più chiara, probabilmente ti ascoltano meglio tutti, ma non ti capiscono a Sassari, capito? Faccio fatica io a capirti, che sono quello che con Alghero riesco a parlare tranquillamente. Quale è quello piccolino da vendere? Era funzionante quello, vero? Mi ricordo che funzionava, l'avevamo staccato per mettere quello più grande e basta. Va bene, dai, va bene. Così lo porto giù e vediamo di farlo i soldi. Adesso sento un attimino Massimiliano e poi ti faccio sapere, ok? Ci sentiamo dopo, Giuseppe, che mi sta chiamando mia moglie. Gappa, gappa, ci sentiamo dopo.